e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Occhi neri, assoluti e sinceri. Oggi è la giornata mondiale della vista e è una buona occasione per tornare a parlare di prevenzione, quindi seguiteci. Oggi faremo un autotest di valutazione della nostra vista. A noi i vostri occhi, a voi il nostro numero verde 800 24 00 24. E a proposito di colore, li vedete sempre belli, nitidi, brillanti oppure un po' più spenti, tendete a confonderli? Chiamateci e diteci se alla fine di una giornata sentite gli occhi stanchi, se si arrossano, se notate che fate fatica a leggere, avete bisogno di aumentare l'illuminazione, se la guida notturna è faticosa perché le luci vi abbagliano. E chiamateci anche se vi siete sottoposti a chirurgia refrattiva e notate magari aloni, macchie. Chiamateci perché vogliamo dare una risposta, una spiegazione a tutte le vostre domande, ai vostri dubbi, ma soprattutto vogliamo ricordare, e lo facciamo a tutti noi, anche a me e a Deborah, perché si tende a predicare bene e a razzolare male, parlo per me, a ricordarci che un controllo può mettere al sicuro la nostra vista. I nostri occhi se lo meritano, quindi, come si dice, non perdiamoli di vista. 800 24 00 24, iniziate subito a prenotare i vostri interventi. Guarda che richiamo vale anche per me. Peraltro stavo pensando, abbiamo dato il numero verde, verde il colore degli occhi della mia mamma, che se me li avesse regalati chissà come sarebbero andate le cose nella mia vita. Invece niente, questo normalissimo castano. A proposito di verde, allora senti che fil rouge con la seconda parte. Voglio vedere dove denari. Ti stai arrampicando. Allora, oggi è giovedì, torna la rubrica Investire Informati, la nostra scuola di risparmio che ci aiuta a leggere e capire le notizie economico-finanziarie, a conoscere gli strumenti, le modalità più adatte per noi per proteggere ed investire in base alle nostre esigenze i denari che riusciamo a mettere da parte. Oggi, cara la mia Nicoletta, torna a farci lezione il nostro professore preferito, Gianni Lupotto. Grande! Sono già emozionata. E con lui parleremo di quelli torinese. Che possiamo... Certo, viene appositamente per noi stamattina. Chissà se ci porta anche due gianduiotti, va? Che sarebbe anche l'ora. Carino da parte sua, esatto. Esatto, con lui parleremo di quelli che possiamo definire investimenti sempre verdi, cioè quelli capaci di darci un buon grado di affidabilità e sicurezza anche nei periodi più turbolenti dei mercati come quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Quindi quali caratteristiche rendono tale una scelta, uno strumento di risparmio, lo capiremo stamattina. È questo, lo chiedo a voi ascoltatori, il criterio con cui avete investito o vorreste investire i vostri soldi? 800 24 00 24, seguiteci sin dall'inizio con grande attenzione, perché poi a bruciapelo vi faremo il nostro domandone. Voglio vivere a colori, colorare il mio destino. E a proposito di colori, 800 24 00 24, un numero verde che oggi è a disposizione per parlare di vista. Ci sono dei segnali che non vanno trascurati perché potrebbero essere sintomi di malattie oculari. Conoscerli quindi credo sia importante, oggi li passeremo in rassegna, cercando però anche di individuare i segnali più sfumati, più subdoli, a cui non prestiamo attenzione perché non ci arrecano fastidio o perché abbiamo imparato a conviverci. Oggi ci aiuta la dottoressa Elisabetta Miserocchi, che è medico oculista presso il servizio Uveiti Ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno. Benvenuta. Buongiorno Nicoletta e Deborah. Ecco, allora dottoressa, ci segua passo passo. Sì. Noi iniziamo a osservare i nostri occhi, quindi guardiamo la sclera, quello che comunemente chiamiamo bianco dell'occhio, che è la membrana più esterna e credo anche quella più robusta, quella che abbiamo più sott'occhio, di cui più facilmente quindi intuiamo il benessere e il malessere. Dottoressa, la sclera si arrossa e a volte avvertiamo una sorta di bruciore fastidioso. Capita quando siamo stanchi, lavoriamo troppe ore al computer, non proteggiamo i nostri occhi adeguatamente dai raggi del sole e dal vento, e tanto che noi diciamo l'occhio rosso o un inizio di congiuntivite. Noi diciamo così perché sa che noi siamo molto veloci a fare diagnosi, ma che cosa ci dicono questi disturbi, dottoressa? Bene, Nicoletta, è vero, effettivamente l'occhio rosso è una condizione che ci capita frequentemente di ritrovare nell'arco della giornata, soprattutto per persone che stanno molte ore al computer o lavorano al videoterminale. L'occhio rosso di per sé è un segnale che deve comunque fare preoccupare il paziente, perché può associarsi a vari tipi di malattie. La malattia più frequente che si associa all'occhio rosso è l'occhio secco, anche chiamata sindrome della disfunzione lacrimale, che è una malattia comunissima, perché recentemente sono stati scoperti un sacco di fattori che si possono associare all'occhio secco: fattori ambientali, il cambiamento climatico, fattori lavorativi, come ad esempio persone che passano molte ore al computer o sugli smartphone, fattori nutrizionali o anche fattori ormonali che possono causare questa secchezza oculare, che poi genera l'occhio rosso e genera tutta una serie di sintomi e fastidi che il paziente arreca, che sono principalmente il senso di occhio pesante, certo, il senso di sabbia nell'occhio e il fatto anche di vedere male, perché le lacrime nel nostro hanno la funzione non solo di nutrire l'occhio ma anche di farci vedere meglio. Il paziente con occhio secco purtroppo ha anche dei disturbi visivi durante la giornata e quindi ci sono, come dire, dei consigli che si possono indirizzare alle persone che stanno tante ore al computer. Sicuramente di effettuare delle pause frequenti, quindi ogni 20 minuti dovrebbe staccarsi dal terminale, guardare in un punto lontano a circa 6 metri di distanza e cercare soprattutto di ammiccare in modo frequente, perché una delle ragioni per cui l'occhio si arrosta è il ridotto ammiccamento, cioè il paziente quando guarda il computer chiude e apre meno le palpebre, quindi questo genera l'arrostamento. Quindi noi suggeriamo, la dottoressa ci suggerisce quella che è stata ribattezzata la regola del 20-20-20, che consiste, esatto, proprio nel prendersi una pausa dal computer ogni 20 minuti, fissare per 20 secondi un punto a 20 piedi di distanza, no? 20 sì, passi di distanza, metri, che sono circa 6 metri. Allora, 800-24-0024, chiamateci se avete dei disturbi. Chiamateci anche se siete affetti da una patologia oculare, se volete sapere se ci sono delle novità nel trattamento. Noi continuiamo a testare la nostra vista. Come vediamo? Dottoressa, anche in questo caso abbiamo bisogno di lei. Come succede per l'udito, anche per i problemi di vista, c'è una sorta di adattamento e quindi può capitare di non accorgerci che la nostra vista stia calando. Sì. Non ci accorgiamo perché nella vita di tutti i giorni ovviamente siamo sempre presi dal nostro lavoro e dalle nostre attività e quindi magari non facciamo caso al fatto che un occhio vede meno. Basterebbe soltanto fare un semplice test coprendosi un occhio e vedere effettivamente com'è la visione monoculare, quindi ci renderemmo conto se c'è un occhio dei due che vede meno. E i disturbi della vista, quindi la vista calata, principalmente sono dovuti a alterazioni del cristallino, come ad esempio la cataratta, ma anche a difetti di rifrazione. Ad esempio ci possono essere nel corso della vita delle alterazioni, quindi dei cambiamenti nelle modalità della visione sia da lontano che per vicino, quindi in particolare alla presbiopia che compare dopo i 42. Allora, provate, chiudete un occhio, osservate quello che avete di fronte, poi chiudete l'altro, osservate, se notate delle differenze chiamateci subito, ma approfittate del nostro numero verde anche se i vostri occhi sono particolarmente stanchi, se soffrite di cefalea, se il mondo che vi circonda vi pare meno colorato, se di notte i fari vi abbagliano, vedete aloni intorno alle luci. Vogliamo leggere naturalmente, prima di andare a sentire le informazioni sul traffico, anche i messaggi che ci arrivano al 349-238-6666. Usare quotidianamente un collirio per l'arrossamento, dottoressa, ci scrive Bruno, può essere dannoso? Qua la domanda del nostro amico Bruno ci permette di fare un rapidissimo distinguo tra collirio e lacrime artificiali, dottoressa. Beh, allora sicuramente se un paziente soffre di secchezza oculare, occhio rosso, usare quotidianamente colliri sostituti lacrimali, quindi le cosiddette lacrime artificiali, è assolutamente un rimedio validissimo, che possono essere instillate da una volta o anche a più volte al giorno, si può arrivare anche fino a 5-6 volte al giorno in casi di pazienti che hanno veramente un importante arrostamento, una importante secchezza oculare. Certo, altri tipi di colliri come colliri antinfiammatori oppure cortisonici, che anche questi possono aiutare nell'arrostamento oculare, vanno usati con più cautela perché ovviamente possono avere degli effetti collaterali più importanti come la cataratta e il glaucoma. Dottoressa, e poi continuiamo naturalmente a parlare, a fare il nostro test visivo. Quando lei mi parla dell'occhio rosso, si riferisce anche a un occhio che lacrima in modo eccessivo e che brucia? Sì, perché paradossalmente i pazienti che hanno questo disturbo dell'occhio secco hanno una lacrimazione riflessa che non fa parte della lacrimazione, quella che viene dalla ghiandola lacrimale, ma è una lacrimazione dovuta al fatto che basalmente, quindi in condizioni basali, l'occhio non è sufficientemente o adeguatamente lubrificato e quindi il nostro occhio risponde con una lacrimazione riflessa. Quindi per salvarsi un po'. Dottoressa, arrivano messaggi anche sul per sapere se alcune malattie si possono prevenire. Ne parleremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione, ma tanto per dare una prima indicazione ai nostri ascoltatori che continuano a scriverci: maculopatia, come prevenirla? Intanto, dottoressa, una brevissima definizione di questa malattia che è molto diffusa. Maculopatia ci fa riferimento alla macula, sì, che è la parte nobile della retina, quindi esatto, un po' il cuore del nostro occhio. Ecco. Diciamo sì che la macula è la parte centrale della retina dove si concentrano le cellule nervose che si chiamano coni, principalmente deputate alla visione per vicino, alla visione distinta. Quindi i pazienti che soffrono di maculopatia o anche di degenerazione maculare legata all'età hanno un'alterazione anatomica con danni della parte centrale della retina che quindi porta a un calo della vista, della visione centrale. Importante. Ci fermiamo qua, si può prevenire con particolari attenzioni, riguardi, con uno stile di vita adeguato, dottoressa? Sì, correggere gli stili di vita è importante perché ci sono parecchi fattori che si associano ad un aumentato rischio di maculopatia. Li diremo tra poco dopo le informazioni sul traffico. 800 24 00 24, continuate a chiamarci. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... e denari. Poi ho visto gli occhi tuoi rotolando verso casa. Posso leggere il messaggio che Mauro da Finale Emilia ti ha mandato, che è un messaggio d'amore che lo dedichiamo a tutte le donne che ci stanno ascoltando. Esatto, vai. Debora, gli occhi... ci ha messo anche l'H finale. Sì, che non ci va, ma non ci vuole, ma perché vuole, è un po' debole. Io l'anagrafe non sono scritta così, ma va bene lo stesso. Gli occhi castani sono in realtà color cioccolato. Esprimono la dolcezza di chi li possiede. Speriamo che abbia ragione il nostro amico. Allora, il cioccolato mi piace molto, quindi deve su essere extra fondente. Se no speciali. Se no ci... va bene. Ci allora, battetta. Intanto abbiamo in linea con noi la nostra esperta, la dottoressa Elisabetta Miserocchi del San Raffaele. Intanto voi chiudete un occhio, osservate, apritelo, chiudete l'altro, osservate, confrontate e chiamate. Oggi parliamo di alla vista in occasione della giornata mondiale che, come sapete, si celebra il... secondo giovedì del mese di ottobre. Stiamo facendo un test di valutazione della vista per evidenziare anche quei segnali che spesso tendiamo a sottovalutare o che per una serie di ragioni, prima fra tutte la mancanza di informazione, non riusciamo a riconoscere. Abbiamo già Francesco che ci scrive su Twitter, che ci informa che alcune aziende in Nord Europa fanno sì che i monitor aziendali si spengano automaticamente per 15 minuti ogni due ore. Addirittura 15 minuti di pausa ogni due ore. Va bene, comunque andiamo subito a rispondere ad Orlando da Verona. Orlando, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, vuole fare la sua domanda alla nostra esperta? Sì, per prima cosa vi volevo ringraziare perché mi fate tantissima compagnia. Io sono un agente di commercio, viaggio molto e vi ascolto sempre. Non so cosa farei senza di voi. Ma... non deve far nulla, continui a star lì fermo e fedele, Orlando. Grazie, grazie molto. Grazie, ecco. Orlando, è davvero gentile. Io sono affetto da maculopatia essudativa. Sì. E ho fatto 3 interventi che consistono in punture, adesso non mi ricordo il principio attivo che mi iniettano dentro l'occhio. Sì. E la prassi è di 3 interventi e praticamente dopo il terzo sono leggermente migliorato, però devo ancora continuare questa cura. Difatti lunedì scorso ho fatto un altro intervento, appunto, che consiste sempre in questa puntura. Sì. Me ne sono accorto che, appunto, viaggiando molto in macchina, guardando il cruscotto di sera con un occhio lo vedevo più scuro, mentre con l'altro era più chiaro. E anche leggendo, che ho preso la malattia di mia moglie del leggere, con un occhio vedevo il libro, diciamo, in maniera ottimale, mentre con l'altro non riuscivo a leggere. Orlando, la sua telefonata è davvero preziosa, perché raccontandoci della sua esperienza dà modo alla nostra esperta, la dottoressa Miserocchi, di parlare anche dei segnali che possono aiutare le persone a capire che, no, gli occhi, i loro occhi, la macula in questo, per questo problema, inizia ad essere sofferente. Dottoressa Miserocchi, bisogna accorgersene. Sì, Nicoletta, come diceva giustamente, è importante sempre fare le prove di un occhio e poi dell'altro, perché ci si può rendere conto di sintomi preziosi. La distorsione delle immagini è un sintomo cardine, segnale di qualche alterazione della macula, che quindi può essere una maculopatia. I pazienti spesso si accorgono, come diceva Orlando, vedendo storto, vedendo alterazioni di lui, a lui è capitato il cruscotto, il libro, oppure magari guardando le piastrelle vedono righe storte. E un'altra sintomo allarmante è l'alterata visione dei colori. Questi pazienti possono avere visioni anomale di colori, oppure visione di immagini rimpicciolite, che si chiama micropsia, proprio per effetto di questa maculopatia. E in ultima analisi, pazienti che hanno la maculopatia hanno una macchia centrale, quindi uno scotoma centrale, vedono al centro del campo visivo, vedono, certo, una macchia anomala. Ci aiuta a ripetere quelli che sono i segnali? Che così li distorsione delle immagini, la visione di immagini rimpicciolite, l'alterata visione dei colori e vedere una macchia centrale alterata. Questi sono i sintomi principali della maculopatia. Spesso ce ne rendiamo conto anche durante leggendo, perché il test della lettura è molto prezioso, ci racconta tante cose del benessere, della salute della nostra vista. La domanda di Orlando riguardava il trattamento. Ci sono delle novità sulla maculopatia? Beh, le novità principali sono sulla terapia intravitreale. Quella che ha fatto Orlando è una terapia a base di iniezione di farmaci, sono farmaci che vengono fatti all'interno della cavità vitrea e sono dei farmaci antiangiogenici, cioè che riducono la proliferazione di vasi che si creano nella maculopatia essudativa e che quindi poi possono portare a rischio di emorragie o di accumulo di fluido a livello della macula, quindi nella regione centrale della retina. Esistono nuovi farmaci anche nell'ambito di questi farmaci antiangiogenici che hanno una durata superiore, perché un po' il problema di tutti questi pazienti con la maculopatia è che sono un po' schiavi di iniezioni, continue iniezioni, certo, e quindi continue accessi in ospedale, in sala operatoria per effettuare le iniezioni intravitreali. Il futuro sicuramente della maculopatia sarà la terapia genica o le cellule staminali, che saranno in grado di ripristinare una funzione nervosa delle cellule, dei fotorecettori della retina. Ma è un futuro vicino o un futuro lontano, dottoressa? Ma diciamo abbastanza vicino. Allora, una batteria di SMS rapidissima, striscioline trasparenti davanti agli occhi, visibili anche con un solo occhio, cosa fare? Ci scrive Ugo. C'è da preoccuparsi oppure facciamo finta di nulla? No, finta di nulla conviene non far mai finta di nulla. Striscioline trasparenti o di vario colore, grigie, nere, possono essere dei corpi mobili vitreali. Di cui parliamo subito dopo il GR, insieme alle vostre domande, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Niente paura. Ci pensa la vita, mi han detto così. Sì, lo sappiamo Nicoletta, ci piacerebbe sempre dormire sonni tranquilli. Ah no, pensavo Ligabue. Sì, ma io sono innamorata. Che ci piace, esatto. Infatti anche questa stamattina abbiamo confessato alla popolazione mondiale. Ma a proposito di sonni tranquilli, effettivamente ci piacerebbe stare sempre, come si suol dire con questo detto, in una botte di ferro, oppure un po' in tutti gli aspetti della nostra vita, eppure in qualche momento della nostra vita c'è qualche rischio con cui dobbiamo fare i conti e saper convivere. Questo vale naturalmente per i denari e per definizione per il mondo degli investimenti. In realtà ci sono alcune scelte che possono dimostrarsi più adatte a chi vuole fare un investimento che possiamo definire sempre con le dovute precauzioni sicuro, affidabile, diciamo non troppo esposto alle burrasche che talvolta colpiscono i mercati finanziari. Quindi di investimenti tra virgolette sempre verdi parleremo nella nostra rubrica di oggi Investire Informati. Voi intanto iniziate a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Leggo dentro i tuoi occhi da quante volte vivi, dal taglio della bocca. Se sei disposto all'odio. Noi leggiamo i nostri occhi, li seguiamo, testiamo la nostra vista insieme alla dottoressa Elisabetta Miserocchi, che è in linea con noi del San Raffaele, medico oculista presso il servizio Uveiti. Dottoressa Miserocchi, i nostri ascoltatori ci stanno tempestando di chiamate, poi gireremo molte richieste. Intanto 800 24 00 24, c'è ancora spazio. L'ascoltatore che avevamo in linea è caduto, ma dottoressa Miserocchi, noi nel frattempo, prima del GR, avevamo accennato a un tema che è sempre ricorrente quando parliamo di vista, e cioè sono quelle macchie, quegli aloni, quei vermicelli, che tante volte si vediamo, specie quando fissiamo magari una parete bianca, attraversano la nostra, no, il nostro campo visivo, un po' come una sorta di interferenze. E vorrei che lei ci desse delle indicazioni, ma anche ci aiutasse a distinguerli da altri segnali che non vanno assolutamente trascurati, che sono i lampi di luce, quindi delle specie di flash che vediamo nel nostro campo visivo. Sinteticamente, dottoressa Miserocchi, qual è il messaggio che vuole mandare ai nostri ascoltatori per lavorare naturalmente sulla prevenzione, per non trascurare nessun segnale? Allora, come diceva esattamente Nicoletta, il sintomo di vedere delle moschine nere, dei bastoncelli davanti al campo visivo rappresenta la presenza di corpi mobili all'interno del vitro, che è quella gelatina che c'è all'interno dell'occhio. È un sintomo che può essere fisiologico, ma non va trascurato, perché si può associare anche altri disturbi della retina, soprattutto se i corpi mobili sono associati ai lampi di luce. Quindi flash di luce e moschine nere vanno sempre, il paziente va sempre visitato, perché bisogna fare un esame attento della retina, perché potrebbero essere delle alterazioni delle retiniche periferiche, come delle rotture, o che poi possono, se trascurate, portare anche al distacco di retina. E non da ultimo, i corpi mobili vitreali possono anche essere il segno di un'infiammazione del vitreo, che si chiama vitreite. Quindi il paziente, quando ha questo tipo di sintomatologia, va sempre visitato. È bene sempre che si rechi dall'oculista. Dall'oculista, soprattutto se non l'ha mai fatto. Si dovrebbe andare dall'oculista anche in assenza di sintomi, e soprattutto ci sono delle età in cui è conveniente fare un tagliando, dottoressa. Sì, il tagliando dopo i 40 va fatto sempre. E è importante fare la visita oculistica completa, cioè non è solo importante rifare l'occhiale e fare la rifrazione, ma è importante soprattutto nella visita oculistica misurare la pressione oculare, perché può essere alterata e quindi può portare a una malattia che si chiama glaucoma. È importante anche vedere il fondo dell'occhio, perché dal fondo oculare si possono diagnosticare una serie di malattie che si possono prevenire o arrestare, quindi con un attento esame del fondo oculare. Quindi mi raccomando, non aspettate di avere un disturbo, ma anticipate. Abbiamo il tempo solamente di fare una battuta con Stefania, certo, da Rimini, prima di passare al nostro appuntamento del giovedì. Assolutamente. Stefania, rapidissima, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in occhio sinistro, parte esterna dell'occhio, una volta all'anno, due volte all'anno, mi compaiono delle piccole onde come se vedessi attraverso l'acqua, oppure come se vedessi dopo aver guardato una luce forte. Scompaiono, ho controllato retina, ho controllato tutto. E poi se ne vanno. E se ne vanno. Dottoressa, cosa suggerirebbe a Stefania? Beh, se ha fatto già l'esame, la visita oculistica completa, non ci sono alterazioni del vitro, non ci sono alterazioni della retina, tendenzialmente non è un grave problema. Può essere un fenomeno della circolazione sanguigna e un esame anche importante da fare per valutare gli strati retinici è quello dell'OCT, che riesce a individuare se ci sono delle alterazioni anche microscopiche a livello degli strati retinici che non si vedono con la normale valutazione del fondo oculare, quindi è un esame diagnostico in più che si può consigliare a pazienti che hanno questi tipi di disturbi. Quindi, rapidamente recuperando le informazioni, ci sono degli esami che sono fondamentali, che permettono al medico, all'oculista, di fare una diagnosi, di intercettare eventuali patologie proprio sul nascere. Abbiamo detto la pressione oculare, il fondo oculare. Fondo oculare e esami aggiuntivi che si richiedono se la visita non è dirimente sono l'OCT, che è come una tomografia della retina, e anche il campo visivo, che valuta la funzione di tutto l'asse visivo, quindi a partire dal nervo ottico fino ad arrivare alle vie ottiche che arrivano al cervello. Dottoressa Miserocchi, voglio dirle che i nostri ascoltatori di Cuore Denari l'hanno promossa, apprezzata, ci stanno già chiedendo. Grazie, dateci e quindi lei è stata praticamente arruolata, conquistatissima tra i nostri esperti, e le passeremo naturalmente le richieste dei nostri ascoltatori che possono scriverci a Cuore Denari. La ringraziamo. Non fare una visita a distanza naturalmente. Questo, ma qualche suggerimento, esatto. Vi ricordo che per tutte le iniziative legate alla giornata mondiale della vista potete andare sul sito della IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Potete anche andare sul sito della CBM Italia Onlus, che è in prima linea nella lotta alla cecità evitabile nei paesi in via di sviluppo. Quest'anno tra l'altro si è concretizzato un progetto bellissimo in Bolivia, dove sono riusciti ad effettuare uno screening a 3150 bambini. Ottimo. E quindi recuperando naturalmente la loro vista. Grazie dottoressa Miserocchi, le scriveremo, ci vediamo a questo punto presto e buona giornata. Adesso nel frattempo, adesso Deborah, che devo partire io, mi è andata la saliva, Deborah, di traverso, neanche sta soffocando, solo per aver applaudito a questo progetto in Bolivia e allo screening su oltre 3000 bambini, quindi bene. Dovevo stare zitta, insomma, in silenzio lo dovevo, allora, apprezzare. Intanto che tu bevi l'acqua, noi salutiamo il... Sono a posto. Allora, acciuffo la linea e cambiamo argomento, sempre sperando di non soffocare nei prossimi 12 secondi. Come ogni giovedì, a quest'ora torniamo a sederci sui banchi della nostra scuola di risparmio con un nuovo appuntamento della rubrica... Investire informati. Con la rubrica Investire informati diamo il bentornato oggi ad un amico della nostra trasmissione che abbiamo già ampiamente preannunciato in avvio di programma, visto che ci piace particolarmente il fatto che da Torino sia venuto a Milano appunto appositamente per trovarci, per darci tutti i suoi consigli. Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, oltre che titolare dello studio di consulenza finanziaria indipendente Lupotto & Partners, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati a tutti. Buongiorno. Allora, io intanto, ancora prima di avere... splendida forma. Come sempre, d'altronde, saranno i gianduiotti di Torino che non ci ha portato, mannaggia. Detto questo, può sempre ritornare. Allora, io intanto il numero verde lo ricordo ai nostri ascoltatori, 800 24 00 24, perché il verde sarà proprio il colore dominante del nostro approfondimento di oggi. Parleremo di investimenti sempre verdi, poi cercheremo di spiegarvi, anzi lo faremo tra qualche istante, la declinazione che abbiamo dato a questo concetto. Naturalmente questo non significa lasciare da parte oggi l'attualità finanziaria, che è un altro ingrediente importante della nostra rubrica. Oggi abbiamo deciso però di privilegiare un altro punto di vista, come deve comportarsi chi vede come priorità la sicurezza del proprio investimento. Sappiamo che per molte famiglie questo aspetto viene ben prima della redditività dell'investimento stesso. Perché abbiamo deciso di affrontare questo tema? Perché ci ha scritto una mail un nostro ascoltatore che si chiama Fabio, la ascoltiamo. Carissima redazione di Cuore e Denari, un tempo investire era molto più semplice. Si compravano titoli di Stato se si voleva rischiare poco, azioni se si voleva rischiare di più. qualche bene rifugio per i tempi difficili e poi si vedeva cosa succedeva. Oggi non è più così. Siamo sommersi da proposte di strumenti sempre più complicati. I mercati ci hanno insegnato a nostre spese che non esistono quasi più strumenti privi di rischio. Quelli che ci sono hanno rendimento zero o quasi. E soprattutto la volatilità rischia di azzerare in pochi giorni profitti di mesi o anni, innescando reazioni emotive che portano a disfarsi degli strumenti in portafoglio nei momenti peggiori. E allora mi rivolgo a voi per chiedere a qualche vostro esperto se in questo panorama così incerto esistono ancora strumenti di investimento che possano essere definiti sempreverdi, che si possano inserire in portafoglio e poi lasciarli lì per un lungo periodo di tempo. Confesso che mi sentirei più tranquillo se avessi la consapevolezza che almeno una parte del mio portafoglio fosse investita in strumenti che non necessitano di un monitoraggio continuo. Allora, la mail l'ha scritta Fabio, come dicevamo, ma il concetto potrebbe essere stato anche quello di Maria, di Giovanni, di Nicoletta, Debora, perché è chiaro che a nessuno di noi attira come dire, il rischio troppo, almeno dopo quello che è successo negli ultimi anni. Dottor Lupotto, strumenti sempreverdi che si possono inserire in un portafoglio e poi lasciati lì per un lungo periodo di tempo senza un monitoraggio continuo. Insomma, investire senza pensieri. È possibile o è un controsenso? Ma è tutt'altro che un controsenso. La lettera di Fabio mette in evidenza una delle esigenze più sentite dai risparmiatori. Nella nostra attività di consulenza ci confrontiamo giornalmente con questo desiderio. La psicologia umana tende alla conservazione e questo vale anche per i propri investimenti. Una volta che abbiamo inserito uno strumento in portafoglio, il risparmiatore medio fa fatica a staccarsene. Questo nel bene e nel male, soprattutto nel male. Allora, soprattutto quando questo strumento realizza delle perdite. Delle perdite e uno dovrebbe liquidare l'investimento. Allora tanto vale aiutare a identificare strumenti che possano essere mantenuti a lungo in portafoglio senza troppi pensieri. Matrimoni felici e duraturi. Senza fare disastri, diciamo. Strumenti di questo tipo esistono, certo è un po' difficile trovarli, ci vuole un po' di pazienza, un po' di attenzione, un po' di regole per poterli trovare. 800 24 00 24, se anche voi come Fabio, utilizzate il numero verde, se anche voi come Fabio vi sentite più attratti da un investimento di questo tipo, se siete già orientati in questo senso. Come avete trovato e scelto le modalità di investimento che in qualche maniera considerate protettive? Per tutti i vostri dubbi e le vostre domande c'è anche la nostra pagina sui social, partendo dal sito di Radio 24, accedete a Facebook e Twitter e poi potete scriverci anche al 349-238-6666. Gianni Lupotto, un dubbio che caratterizza molti è saper individuare il momento per investire e per disinvestire. Nel gergo finanziario si chiama timing. Gli eventi di questi ultimi tempi ci hanno abituato a mercati molto spesso, forse un po' troppo spesso, turbolenti. Questo in particolar modo è veramente un momento di alta volatilità per i mercati. Scegliendo gli strumenti sempre verdi, intanto si può iniziare ad investire in qualsiasi momento? Diciamo che qualunque momento è buono per iniziare la ricerca di questi strumenti e identificare alcuni strumenti che potrebbero avere tutte o quasi le caratteristiche per. Se sia il momento o meno di ingresso, questo dipende dal momento di mercato e quindi ci sono delle regole da conoscere per poterlo scegliere. Certo. Diciamo che in qualunque momento qualche strumento sempreverde si riesce a trovare. Volevo specificare ai nostri ascoltatori che noi stamattina stiamo parlando di un concetto, non di un particolare tipo di strumento che ha la denominazione sempreverde, quindi adesso non chiamate il vostro consulente finanziario, il promotore, non andate in banca domani mattina per chiedere voglio un sempreverde, mi fate investire 100 euro in uno strumento sempreverde, non esiste, è un concetto quello che stiamo approfondendo questa mattina. Quando parliamo appunto di un investimento su questo segmento, dottor Lupotto, passiamoci questo termine, possiamo individuare anche una durata media dell'investimento? Parliamo di scelte di breve periodo, medio periodo, lungo periodo, siamo in grado di quantificare il tempo che dobbiamo starci? Per ciò che abbiamo detto sono scelte di lungo periodo e sono scelte un pochino a tempo indeterminato, nel senso che quando identifico uno strumento idoneo lo posso inserire in portafoglio e tenerlo anche a tempo indeterminato. Ben inteso, questo non vuol dire che non si possa far uscire e poi rientrare questo strumento in portafoglio perché magari ha una performance particolarmente positiva. Il concetto, come diceva giustamente lei, è quello che potrebbe essere tenuto in portafoglio anche per un periodo di tempo molto lungo. Con questi strumenti paghiamo la tranquillità. Ieri mentre preparavamo la scaletta diretta con Marco Lombardo, mi veniva in mente per esempio il fatto di stipulare un mutuo a tasso fisso rispetto al mutuo a tasso variabile, che generalmente tasso fisso è un pochino più oneroso di quello variabile, ma perché paghiamo la tranquillità di avere una rata che è sempre la stessa per tutta la durata, diciamo, del finanziamento. Anche con lo strumento di investimento sempre verde in qualche maniera paghiamo la tranquillità rinunciando a un po' di redditività, dottor Lupotto? Concettualmente sì, anche se devo dire che il minor rendimento non è così inferiore a quello che ci si potrebbe aspettare. Diciamo che l'attività di trading necessita di un timing appropriato. Il risparmiatore comune non è in grado di identificare i momenti giusti per il timing. Molto spesso con una minore movimentazione del portafoglio si ottengono risultati più stabili e non è detto che siano inferiori alla norma. 800 24 00 24, se volete potete intervenire questa mattina per commentare con noi il tema un po' particolare che abbiamo scelto. Non parliamo di mercati finanziari nello specifico, lo faremo tra poco raccontandovi la seduta di borsa, perché anche su questo siete sempre molto solerti a segnalarci che alle 10:30 non la facciamo quasi più. Se volete commentare con noi le vostre scelte di investimento, se avete fatto una riflessione sull'argomento che abbiamo scelto oggi, avete fatto le vostre scelte cercando anche di immaginare una sorta di tranquillità del vostro portafoglio, poco movimento, una stabilità. Credo che queste peraltro siano le richieste assolutamente più diffuse, no, in tempi recenti, dottor Lupotto. Secondo la sua esperienza, in questo momento la famiglia italiana come si orienta? Cerca ancora la protezione del proprio risparmio oppure sta assumendosi un pochino di più di rischio, anche perché effettivamente lo strumento di investimento sempreverde, ricordando che è un concetto, non è che esiste nel senso che c'è una cassaforte, a parte proprio quella magari concreta appunto, che protegga il tuo risparmio e da lì insomma non si muove più. Ma guardi, io vedo che i temi fondamentali sono sempre i medesimi. I rendimenti, diciamo così, sicuri sono molto bassi. Le famiglie cercano di tirare sulla testa e dire ma cerchiamo di investire in qualcosa di più rischioso, e poi inevitabilmente quando i mercati turbolenti portano a qualche scossone del portafoglio questa propensione al rischio crolla e viene fuori l'incertezza e il dubbio. Quindi è proprio un ciclo psicologico che noi riscontriamo sempre. Ecco perché tendiamo a suggerire degli investimenti che abbiano una volatilità intrinseca e una componente di tranquillità elevata. Allora, i nostri ascoltatori intanto si accontentano poco della teoria, vogliono che andiamo subito alla pratica, come potevamo immaginare. Allora vi anticipo già che adesso facciamo la borsa, vi racconto cosa sta succedendo in questa giornata, poi andremo proprio ad alcuni casi concreti. Mi raccomando, fin da ora non sono gli esempi che faremo dei suggerimenti di investimento, perché non li possiamo dare per noi qui a Radio 24 per policy aziendale, non può farlo naturalmente Gianni Lupotto, perché faremo degli esempi di suggerimenti di investimento. Investimento vanno dati alle persone dopo che queste hanno spiegato quali sono le loro esigenze, quali sono i loro obiettivi finanziari, i loro obiettivi di vita. Per cui esempi, faremo degli esempi, non sono suggerimenti di investimento. Sono stata abbastanza chiara? No, sei stata molto chiara, perché perfetto. È quello che succede anche per la salute, per la medicina. Parliamo di prevenzione, parliamo di segnali, ma naturalmente i nostri esperti non possono fare diagnosi al telefono né tantomeno suggerire delle terapie, perché come sempre va calzata su misura, esatto. Va indossato un abito sartoriale. Fatte tutte queste raccomandazioni, la giornata di borsa e poi torniamo subito dopo. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Marco Lombardo e Laura Vanossi si sono proprio lanciati stamattina con le quattro stagioni di Vivaldi. Perché? Perché parliamo di quegli strumenti di investimento buoni per tutte le stagioni, ma esistono? Esistono quelli in grado di proteggerci dalle fasi più turbolente dei mercati finanziari, che ci danno un buon livello di sicurezza e non ci costringono ad un controllo costante? Esistono strumenti sempreverdi? Ne stiamo parlando questa mattina. Strumenti, più che altro stiamo parlando del concetto dello strumento di investimento. investimento sempre verde, per cui ribadisco, non andate in banca a chiedere se esiste una soluzione di investimento che ha questa denominazione. Magari qualcuna adesso, dopo aver prenderà sentito Cuore Denari, quindi noi saremo pronte subito a brevettare con Gianni Lupotto il nostro concetto di oggi. Gianni Lupotto, il nostro consulente finanziario indipendente che ci accompagna stamattina in Investire Informati, 800 24 00 24. Allora, dottor Lupotto, visto che gli ascoltatori ci chiedono la ciccia, come si suol dire, prima di sentire la domanda di Luca da Bari le chiedo: ad esempio, il comparto obbligazionario si può considerare come il comparto di investimento sempreverde per eccellenza, oppure non è più così? Esistono oggi delle obbligazioni evergreen? Beh sì, il comparto obbligazionario, per usare un termine botanico, è il vivaio naturale, perché di un'obbligazione noi possiamo conoscere la scadenza, paga una cedola, e quindi possiamo anche calcolare il rendimento a scadenza. È quindi possibile concentrarsi sulle scadenze corrispondenti ai nostri obiettivi di vita, selezionare obbligazioni con un rendimento accettabile per noi, inserirle in portafoglio e a questo punto tenerle anche fino alla scadenza. Questo è un classico metodo di investimento sempreverde. L'importante è essere disciplinati, e quindi una volta che si è deciso che questo investimento è stato fatto, non farsi spaventare dalle oscillazioni di prezzo che ci possono essere anche sul comparto obbligazionario, anche molto pronunciate. Dobbiamo ricordarci che se noi l'obbligazione la teniamo fino alla scadenza, le oscillazioni nel durante non ci toccano, perché continuiamo a ricevere la cedola e riceveremo il capitale a scadenza. Ci sono solo due punti d'attenzione: non farsi ingolosire da rendimenti troppo elevati, perché questo comporta un certo rischio, e per ciò stesso diversificare adeguatamente il portafoglio. Non vale comprendere una obbligazione per quella scadenza, conviene prenderne diverse, magari anche quotate sul mercato. Soprattutto quotate sul mercato. Perché ci ha fatto questa raccomandazione? Lo dico subito ai nostri ascoltatori, perché a microfoni spenti stavo raccontando a Gianni Lupotto di una mail che ci ha inviato un'ascoltatrice, ci è arrivata ieri pomeriggio, le risponderemo in privato perché la mail è piuttosto articolata, e ancora una volta ci racconta di un investimento in un'obbligazione di una banca di credito cooperativo molto piccola vicino a casa sua. Adesso questa banca non è in una condizione particolarmente preoccupante, ma come stanno facendo molte popolari in questo momento e molte banche di credito cooperativo, non permettono a questa famiglia, questa banca non permette a questa famiglia di liquidare questo investimento. E quindi la raccomandazione: se domani mattina andiamo in banca e la banca ci propone, vuoi mettere 5.000 euro qua nell'obbligazione di casa nostra, dottor Lupotto, che domande ci dobbiamo fare? Dobbiamo chiedere: ma questa obbligazione è quotata su un mercato, regolamentato o anche OTC, quindi ha degli scambi? In questo caso, in caso di necessità, io posso comunque venderla sul mercato. Ovviamente la posso ottenere anche fino a scadenza, però è meglio se è quotata, quindi negoziabile. Ci ritorneremo poi sulla questione di queste banche, dalla Pop Vicenza a Veneto Banca, che non permettono di disinvestire i propri azionisti ed obbligazionisti, appunto il loro investimento. Andrei invece adesso dall'amico che abbiamo evocato poco fa, Nicoletta. Luca da Bari, buongiorno Luca. Buongiorno. Che ci racconta? È una domanda proprio focalizzata sul tema della trasmissione. Cioè, la mia famiglia ha effettuato degli investimenti di un certo capitale, diciamo 50-50, alcuni sui fondi e altri sui certificati di deposito. Sì. E siccome la mia famiglia è una famiglia molto prudente, volevo sapere se magari c'era qualcosa di più prudente, oppure diciamo il profilo prudenziale è stato rispettato da chi ce li ha proposti. Bisognerebbe esaminare un po', per esempio, il mondo fondi, come è stato organizzato. Sono fondi di investimento, saranno azionari, obbligazionari, saranno sui paesi emergenti, saranno sul mercato europeo, saranno su piazza affari, insomma ce n'è un universo mondo da considerare. Però facciamo un esame molto veloce nel rapporto fra fondi e certificati di deposito. Che tipo di diversificazione ha fatto il nostro ascoltatore? Diciamo una diversificazione a prima vista adeguata. Per quanto riguarda dei certificati di deposito, questi non presentano particolari rischi di mercato. Semmai c'è un rischio emittente, dipende questi certificati di deposito di che ammontare sono, perché se sono di ammontare molto elevato, ricordiamo che sono soggetti al rischio dell'emittente bancaria, quindi della banca che li ha proposti, per quanto riguarda la quota superiore a 100.000 euro per ogni sottoscrittore. Sono però liquidabili facilmente i certificati di deposito, dottor Lupotto? No. Devono essere portati a scadenza come un obbligazione? applicazione? Normalmente i certificati di deposito vanno portati a scadenza e danno luogo al pagamento di un interesse. Quasi sempre consentono la uscita immediata con una penalizzazione, quindi con il mancato pagamento dell'interesse pattuito. Allora, investimento sempre verde e azioni. E qua ci addentriamo in un campo davvero interessante, perché per definizione ovviamente il mercato azionario è quello in assoluto più rischioso, ma nel lungo termine viene ancora considerato, anche se questo lungo termine ci ha fatto tanto discutere negli ultimi anni, viene considerato quello capace di dare ed esprimere le maggiori soddisfazioni, avendo pazienza naturalmente di star lì e soprattutto cercando di resistere anche dalle oscillazioni che in certi momenti possono essere piuttosto profonde. Allora, quali caratteristiche deve avere un'azione per poter essere considerata uno strumento sempreverde? Ma esistono azioni sempreverdi poi, tra l'altro, dottor Lupotto? Qualcosa si riesce a trovare. Diciamo che bisogna darsi delle regole e dobbiamo darci appunto e cercare di rispettarle, delle regole di ricerca. Noi abbiamo cercato di estrarre alcune che adesso presentiamo. Anzitutto il titolo azionario che analizziamo deve avere una certa storia pregressa per poter consentire di formarsi un'opinione. Noi identifichiamo 15 anni come il periodo minimo di osservazione per poterla analizzare. In questi 15 anni l'azione deve aver dimostrato una capacità di generare utili e dividendi con costanza. Questo serve sia al mercato, perché di solito i titoli che generano dividendo nei momenti di turbolenza sono quelli che perdono meno, ma serve anche al risparmiatore, che si trova ad avere un flusso cedolare costante anche nei momenti difficili, e questo psicologicamente aiuta. Esatto, certo. Poi deve presentare una serie storica di prezzi, che si rileva guardando un grafico di 15 anni, che si muove in un certo range di lungo periodo chiaramente definibile. La cosa più importante nel guardare il grafico è che questa azione deve presentare dei minimi nel tempo che non scendano progressivamente, ma che siano o diciamo su una linea orizzontale o leggermente crescenti nel tempo. Questo dà solidità. Più ci sono questi minimi allineati, più questo viene detto in termini tecnici un supporto che potrebbe non essere violato nell'analisi tecnica. Esatto, nell'analisi tecnica il floor, il pavimento e il supporto, invece, come dire, al rialzo ci quel limite estremo è la resistenza. Esattamente. Infine devo decidere se entrare o meno. Allora, guardando questo grafico, devo avere un prezzo tale di ingresso che sia abbastanza vicino ai precedenti minimi. Non è detto che sia per forza sui minimi, ma deve essere più dalla parte bassa di questo canale che dalla parte alta. Questi quattro criteri messi insieme ci possono dare appunto criterio di selezione e di identificazione di quei titoli che posso pensare di inserire in portafoglio. Allora, siccome un grafico vale più di 100 parole, noi in realtà non riusciamo a mostrarlo attraverso la radio ai nostri ascoltatori, ma cercheremo di identificarlo e di raccontarvelo nel miglior modo possibile. Abbiamo preso un esempio di un'azione che può candidarsi appunto a far parte dell'elenco delle sempreverdi. In realtà ne abbiamo due, vediamo se riusciamo a farle ad entrambi. Ribadisco, parleremo di un titolo specifico, ma per non farmi venire ad arrestare da nessuno per insider trading, agiotaggio e per tutti i reati possibili ed immaginabili, no, anche è un esempio. Dopo Nicoletta mi rimane anche da sola. Ecco, poi c'è Donne di Denari. Ecco, che è un esempio, non è un'indicazione di investimento, perché non le possiamo dare, per cui mi raccomando, ma era l'azione che in maniera più chiara possibile ci poteva proprio concretizzare queste raccomandazioni che Gianni Lupotto ci ha formulato fino a questo momento, cioè le caratteristiche dell'azione sempreverde. E noi abbiamo scelto l'azione che i giornalisti finanziari chiamano il cane a sei zampe. Esatto, ed è Eni, un titolo conosciuto da tutti, quindi è chiaramente un esempio di scuola. Vediamo se il titolo Eni ha le caratteristiche che abbiamo detto. Certamente ha una storia molto lunga e quindi questo ci aiuta. In questi ultimi 15 anni Eni ha sempre pagato dividendo, non lo ha mai mancato, un po' più alto, un po' più basso, però è un fatto che ha sempre pagato dividendo. Il dividendo corrente, quello che è stato pagato quest'anno di 96 centesimi, pagato in due tranche, esatto, a maggio e settembre, c'è sempre un acconto, è circa il 6,35% del prezzo di oggi, e quindi è un dividendo importante, interessante. Non possiamo mostrare in radio il grafico del prezzo, però se guardiamo il grafico del prezzo notiamo che con alti e bassi il titolo Eni in questi ultimi 15 anni è sempre riuscito a rimbalzare da dei minimi relativi in area 12-12,50. Quindi quel supporto che avete sempre osservato, qual è stato? Al di sotto di quale soglia non è mai andato questo titolo? Non è mai andato al di sotto di 11 il titolo. Adesso il suo prezzo è 15. Il suo range, la sua escursione nei 15 anni è stata fino anche a 28, che è stato il massimo nel 2007. Quindi adesso si trova a 15. Poco prima che cominciasse il tracollo mondiale, esatto, di tutto quanto. Si trova a 15 e noi e quindi questo è un livello abbastanza vicino ai minimi, non proprio attaccato ai minimi, ma abbastanza vicino. E quindi possiamo andare a retrospettivamente calcolare quale sarebbe stato il rendimento di un investitore che nel passato, per esempio al mese di ottobre, negli ultimi 15 anni, avesse investito in Eni quando si trovava sotto il prezzo di 15 o attorno al prezzo di 15. Questo è successo diverse volte, è successo nel 2000, nel 2001, 2003, 2011 e chi avesse investito allora in questo titolo e l'avesse mantenuto senza fare più niente, tenendolo in portafoglio, avrebbe ottenuto rendimenti interessanti, sempre vicini o superiori al 6%, 6,8%. 6,20, 5,80, 6,57 e 8,18 rispettivamente con ingresso in questi anni. Ecco che si formano quindi una serie di circostanze che ci fanno dire che Eni può essere un titolo che possa essere considerato un titolo sempreverde. A patto che il suo ingresso avvenga ad un prezzo, diciamo, non troppo elevato. E naturalmente questo non ci dà nessuna garanzia sul prezzo futuro di Eni. Esatto, lo ribadisco. Un'altra regola aurea dell'investimento. Il rischio in conto capitale è ineliminabile. Con questa analisi noi identifichiamo dei titoli che hanno più alta probabilità di altri di sviluppare questa caratteristica. Insomma, risponde alle 5 regole d'oro. Esatto. Che il dottor Lupotto, che io ho capito bene. Sì, siamo pronti. Facendo un dei po' di cenni, esatto, un po' di minacce alle spalle abbiamo. E allora, però io volevo proprio che si riuscisse a completare tutto il discorso su Eni. Andiamo subito in strada, veloci, veloci. Cuore e denari. Senti, è arrivata la sigla, ti sei messa la cuffia? Sì, rientriamo con il domandone. Esatto, chi vuole vestirsi da Mike Buongiorno? Io lo faccio, dai. Dai. Allora, dai. Prima di riprendere con Gianni Lupotto il tema dell'investimento sempre verde, che vedo che anche alla mail ha scatenato il vostro interesse, ma voi continuate a chiamarci anche all'800240024, componete il numero anche per rispondere al nostro domandone. Poco fa Gianni Lupotto ha individuato un'età, un lasso di tempo nel consigliare i titoli azionari sempreverdi. Quanto deve essere lunga, secondo i consigli del nostro esperto, la storia di un titolo per rientrare in questa categoria? Vediamo chi è il primo a rispondere correttamente al nostro, appunto, numero di riferimento. Noi intanto completiamo il nostro ragionamento. Sentirei velocemente Gabriele da Padova. Gabriele, benvenuto. Sì, buongiorno, saluti a tutti. Grazie. La mia domanda è un po' più nel specifico. In pratica, il fondo azionario, sì, China Consumer, che ce ne sono di varie marche. Vabbè, un fondo che investe sul mercato cinese, Gabriele. Adesso questo magari è il nome specifico di un fondo gestito da un SGR. Cioè nel mercato di consumo dei cinesi. Certo. Sarebbe un ottimo momento per entrare... adesso, visto il cambio, diciamo, di strategia economica, sarebbe, esatto, un ottimo, neanche buono, esatto, un ottimo momento. Lui vuole sentirsi dire che ha fatto un ottimo investimento. Allora, Gabriele, il tema è interessante effettivamente, perché con il cambio di politica economica di quel paese, paese che esporterà un po' meno rispetto ai trend del passato, ma si focalizzerà sulla crescita interna, lui dice: perché non investire in un fondo che punta su quelle aziende che naturalmente punteranno a loro volta sulla crescita dei consumi cinesi. Il ragionamento non è male, quello di Gabriele, però l'investimento cinese abbiamo visto come negli ultimi anni sia stato negli ultimi mesi soprattutto caratterizzato da una volatilità decisamente accentuata. Lei che consigli dà per questo mercato? è proprio questo il discorso, che i mercati cinesi si sono mossi con una logica completamente svincolata da quelle che sono i ragionamenti di macroeconomia o di sviluppo dei consumi. Abbiamo visto un mercato cinese che nel breve volgere di un anno e mezzo, ha raddoppiato il proprio valore e poi l'ha nuovamente dimezzato, tornando ai livelli dell'anno passato. Quindi impostare un investimento sulla Cina in questo momento è molto difficile, ci sono molte variabili in gioco, non ultima la scarsa trasparenza l'accesso dei privati cinesi al mercato, dei risparmiatori privati, perché tutta questa bolla è stata causata in gran parte da dal parrucchiere cinese da una metodologia indiscriminata e ingestita di accesso al mercato azionario. Quindi in questa incertezza io non mi sento di dare suggerimenti, ciascuno deve valutare per sé, e certamente in generale chi decide di investire su questo mercato deve farlo per quote ridotte del proprio portafoglio. Esatto, e soprattutto essere paziente e starci per lungo tempo, perché appunto quell'economia certamente crescerà nel lunghissimo periodo secondo i criteri individuati da Gabriele, come suggeriscono anche molti esperti di macroeconomia, ma sono dei processi demografici ed economici che avvengono veramente con tempi estremamente larghi. Allora, avevamo anche un altro titolo da raccontare che è Endesa, non ce la facciamo, però praticamente il criterio era quello di Eni, una storia lo stesso di 15 anni, lei è andata a ritroso su questo titolo. Sì, il criterio è simile. Endesa, come sappiamo, è il principale titolo elettrico spagnolo, avevo preso anche un titolo fuori Italia, che ha i medesimi ragionamenti, il dividendo è un pochino più basso, però la storia di Endesa è anche quella di distribuzione di dividendi straordinari, pur senza poter prevedere dividendi straordinari in futuro, ci sembra anche questo un titolo interessante. Senta, azioni, obbligazioni, c'è chi invece continua a puntare quasi esclusivamente sulla liquidità. Esistono strumenti sempre verdi che possono essere associati alla liquidità, che non significa banconote sotto il materasso o conto corrente, dottor Lupotto? Beh, in realtà, a ben vedere, la liquidità è il primo sempreverde da avere in portafoglio. Non ci sono controindicazioni. Perché? Perché la parte di liquidità ci protegge quando le cose vanno male, è vero che rende zero, ma ci protegge quando le cose vanno male, ed è disponibile in caso di identificazione di nuove opportunità. Se io sto cercando i miei bravi strumenti sempreverdi e non ho liquidità, ne trovo uno, come faccio a comprarlo se non ce l'ho? Quindi la liquidità sì, è difficile convincere un risparmiatore a tenere una quota a parte in liquidità, va tenuta, magari sul conto corrente. Davvero, è difficile, io pensavo che invece molti fossero orientati a tenersi il bel gruzzoletto lì ben visibile, pronto ad essere riscattato in qualvolta realtà, no, si voglia. Perché c'è l'impressione che renda niente, no? E quindi anche l'impressione è anche abbastanza giustificata, direi. Sì, però quando i mercati vanno male non è così, perché diciamo protegge. E quindi, e anche quando vengono da noi i risparmiatori, i clienti ci dicono: vabbè, io mi rivolgo a un consulente, voglio che mi investa tutto. E tante volte dobbiamo convincere di tenere una quota a parte, perché è una cosa importante, perché l'opportunità potrebbero manifestarsi poco dopo. Poi magari si dimenticano di dire che nel giro di un anno devono comprare casa, investono tutti in uno strumento che quando lo vai a disinvestire ti costa un onere incredibile. Sì, che cosa succede? Ci manca un minuto, Nicoletta giustamente me lo segnalava. Un'ascoltatrice, Daniela, dottor Lupotto, ci scrive: cosa si intende in termini percentuali un rendimento equo e non troppo elevato, che potrebbe nascondere qualche rischio eccessivo? Dipende dal momento di mercato, perché i rendimenti sul mercato obbligazionario in questo caso sono collegati diciamo ai tassi base. In questo momento i tassi base sia in euro che in dollari sono bassi, in euro bassissimi, in dollari abbastanza bassi, e quindi va calcolato uno spread, diciamo un rendimento ragionevole per l'euro è il 2-3%, per il dollaro è il 4-5%. Chiarissimo. Osvaldo dalla provincia di Mantova ha risposto al nostro domandone, che era: quanto deve essere lunga, secondo Gianni Lupotto, la storia di un titolo per rientrare in questa categoria? La teoria di Lupotto, adesso la denomineremo. Osvaldo, benvenuto per i nostri libri. Buongiorno. Veloce, veloce. 15 anni. Esatto. The winner, grazie. Is Osvaldo. Grazie a Gianni Lupotto per essersi imbarcato del viaggio da Torino fin qua, per raccontarci tutte queste cose molto interessanti che ne ci vale sono proprio piaciute pena, stamattina. Sì. Ci risentiamo tra un mesetto per un'altra lezione di economia e finanza nella nostra scuola di risparmio con Gianni Lupotto. Investire Informati torna giovedì prossimo. Noi torniamo domani? Sì, volentieri. Buona giornata a tutti.